Domani a Palermo è prevista una manifestazione contro lo sfruttamento dei lavoratori migranti, insomma di tutti quanti i migranti presenti sul territorio e anche non, immagino, che cosa poi è previsto per domani nello specifico. Ma allora, guarda, domani sarà una giornata particolare, è un corteo particolare questo che si vedrà sfilare a Palermo. L'evento scatenante che ha portato al percorso di iniziativa di questa manifestazione è stata la vicenda di un giovane ambulante marocchino che a inizio settimana, insomma, per protesta dopo l'ennesimo, perché a quanto pare si racconta di una qualche persecuzione ai suoi danni, si è dato fuoco vicino alla città dell'universitaria per protesta contro il sequestro della sua merce da parte di un corpo di vigili urbani. Per cui il corteo di domani sarà fortemente incentrato su questa vicenda. Naturalmente nel percorso di avvicinamento, percorso che ha visto tutte le comunità di migranti presenti sul territorio palermitano, quindi non solo quella le varie le comunità nordafricane, ma anche, insomma, la comunità bengalese, la comunità cinese, partecipare a una serie di incontri in cui si è discusso da un lato delle condizioni del giovane ragazzo marocchino che è ancora all'ospedale in provincia riservata in condizioni davvero davvero gravi, dall'altro lato si è preso spunto da questo estremo gesto di protesta da parte di questo ragazzo per andare un attimo ad analizzare quelli che sono i comportamenti e in qualche modo di qual è la prassi e il trattamento che queste comunità, che il mondo dei migranti a Palermo sono costretti a subire da parte delle forze dell'ordine, da parte del corpo dei vigili urbani e quindi indirettamente da parte dell'amministrazione comunale, perché non possiamo, ed è quello su cui si incentrerà molto il corteo di domani, non possiamo in qualche modo negare che al di là delle responsabilità individuali dei singoli vigili urbani che hanno fatto questo sequestro e che in generale erano anche abbastanza noti nel mondo delle comunità per i loro metodi, a parte questo tipo di responsabilità crediamo e riconosciamo una responsabilità importante da parte dell'amministrazione comunale che tra delibere di qualche mese fa contro gli ambulanti nel nome del decoro, tra la tolleranza dimostrata in più di un'occasione verso trattamenti discriminatori nei confronti dei migranti, insomma, ha dato spazio a questo tipo di comportamenti da parte dei vigili urbani, per cui, insomma, la protesta sarà fortemente incentrata sulla rabbia per quello che è successo e sulla rabbia verso l'amministrazione comunale del sindaco Cammarata, che anche su questo piano sta dimostrando tutta la sua dannosità per la città di Palermo, per i suoi equilibri, una città che tendenzialmente questo tipo di fermenti di razzismo e xenofobia non li aveva, non li conosce e che invece si alimenta con queste leggi discriminatorie e con questa politica, per cui appunto sarà un corteo della rabbia, un corteo di protesta, un corteo di denuncia da parte delle comunità di quello che sono costretti a subire, e speriamo che sarà il più partecipato possibile.